Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e gli si prostrò chiedendogli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per il quale il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Oggi è la festa di San Giacomo. Auguri a tutti coloro che portano questo nome e che festeggiano il proprio onomastico. Chi era Giacomo? Giacomo era il fratello di Giovanni ed erano i due apostoli che si dedicavano alla pesca prima di incontrare Gesù. E Giacomo e Giovanni hanno come madre Salomè, e la quale appunto si avvicina a Gesù con un po' di prosopopea, perché vuole che i suoi figli siano uno alla destra e uno alla sinistra nel regno dei cieli. Ma come tutte le mamme vuole sempre anche degli onori per i propri figli, vuole essere orgogliosa dei propri figli. Ma Gesù vuole farci capire in questo brano un